riuscire a resistere ai colpi significa che comunque ti stai preparando per crescere, per fare qualcosa di buono. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. And the Oscar goes to... Calcio d'angolo di Candreva, palla in area di rigore, deviata di testa! Ci dici di cosa c'è stato bisogno in quel quarto d'ora? No, ma non c'è stato bisogno di parlare tanto. Io penso che tutti uniti, tutti compatti da squadra, si esce da situazioni difficili. Primo tempo quasi perfetto, secondo totalmente contrario. La squadra ha perso la fiducia, secondo me. Abbiamo fermato a giocare senza fiducia e senza credere. Sono arrabbiato con i miei giocatori perché è stata la miglior prestazione del Milan di quest'anno, perché abbiamo messo sotto un avversario forte che ci aveva 19 punti più di noi in classifica, ma non si sono visti. Hanno dimostrato, dopo tutti i ragazzi, di avere grande forza e grandi attributi, ecco. Oggi possiamo comunque sognare, no? Buongiorno a tutti. Tanto per cominciare, è stata una meravigliosa partita di pallone. Poi è chiaro che per i milanisti non si è mai giocato, gli interisti la riguarderanno mille volte. Tanto per cominciare, è così. In secondo luogo, aprendo le danze con l'invito agli ascoltatori 800240024 e WhatsApp vocali 349-238-6666, ne abbiamo già quattro prima che cominci la trasmissione, quindi. Ma a proposito di messaggi, assolvo subito il mio compito, che è quello nella vita di segretario di Pierluigi Pardo. Buongiorno. Buongiorno, come va? Molto bene, ho raccolto per te un WhatsApp che adesso ti trasmetto, arriva da un tuo amico Ciccio Valenti, eccolo qua. Yeah. Allora, sono in treno, e da ieri sera che giro nudo, nudo col cappello. Che devo fare? 4-2, nudo, col cappello, nudo. Vabbè, ciao. Ah, scusi signore. Ok, scusi. E te l'ho detto, nudo, col cappello, in treno. Che gioia. Stasera viene con te, viene da te a Tiki Taka nudo col cappello, io te lo dico, non lo so se viene, io te lo dico. Credo che non sia in Italia stasera, però sicuramente quel video lì lo facciamo vedere. Ma insomma, ovviamente di casa Tiki Taka, devo dire che è stato molto divertente. Tra l'altro, non so se l'avete visto su Twitter, lui fa un video apparentemente nudo, sì, quantomeno a torso nudo, con la cintura di sicurezza e il cappello, sì, una cosa, vabbè, insomma, è la parte più divertente, più goliardica, e quindi veramente ho visto fra l'altro nei commenti che anche qualche tifoso del Milan o di altre squadre si è fatto una risata, perché insomma sì, vabbè, fa parte dello spirito del gioco, Ma perché anche perché se non riusciamo a riderci sopra ci incattiviamo tutti e diventiamo come quelli che scrivono porcate sui social. Ciao Sandro Sabatini. Ciao, ho un'idea, mettetelo con la tutina di Achille Lauro stasera a Tiki Taka. Oddio, mi vengono i brividi, possiamo cambiare discorso? Tu però ti presenti tu sempre impeccabile all'inglese almeno. Che vuoi sapere, Carlo? Perché io non ho spiegazioni sul derby. Se vuoi ti do la mia non spiegazione. Sì, scambiamoci delle non spiegazioni. La mia è che... il mago Merlino svedese avesse 45 minuti di pozione magica, poi è finita la pozione magica e i ragazzi si sono persi nel bosco. Guarda, io ho sentito dire quello che hai appena detto, no? Gli interisti se lo riguarderanno, i milanisti lo cancelleranno. Mi viene in mente che mi è sembrata, anziché una partita a primo tempo e secondo tempo, andata e ritorno. Cioè, nella storia anche della Champions, no? Ci sono quelle partite che 2-0 la partita di andata, figurati al ritorno, che succede? Poi al ritorno invece la ribaltano il Liverpool, chi era? Il Barcellona col Paris Saint-Germain, ecco. La Roma con il Barcellona. Bravo. Ecco, mi è sembrata per la prima volta di aver visto un andata e ritorno nella stessa partita. Sì, no, pazzesco. Cioè, a saperlo prima potevano vendere i biglietti al triplo, anche se erano molto cari, potevano venderli al triplo, tanto due partite al prezzo di una. Sì, sì, è vero. Sì. No, ma concordo con questa non spiegazione, tanto più che, insomma, Pierluigi, l'Inter è ritornata subito dentro la partita in un pugno di secondi, ed è stato questo, credo, il motivo della sconfitta del Milan. Troppo breve, troppo facile quasi la rimonta dell'Inter, ma non è che sia poi cambiato l'universo tra un tempo e l'altro, dal punto di vista del gioco, dico. Non penso che sia stato solo Ibra il primo tempo del Milan e la pozione magica. Io penso che il Milan abbia fatto veramente un grandissimo primo tempo, approcciando la partita meglio dell'Inter fin dai primi minuti e monetizzando poi improvvisamente con quelle due azioni nel finale. Dal punto di vista psicologico deve essere una mazzata, però insomma è stato clamorosamente un derby. Mm. È stata una dinamica da partita diversa, da partita speciale, quindi con delle dinamiche psicologiche che sono accresciute rispetto a una partita banale, e questo ha esaltato il Milan nel primo tempo, l'Inter nella ripresa, ha depresso l'Inter nel primo tempo e il Milan nella ripresa, altrimenti appunto non si spiega. Poi partite così ci sono, l'Inter quest'anno sulla sua pelle ha vissuto Dortmund, che è abbastanza simile come tipo di dinamica, una squadra molto applicata, capace di bloccare completamente l'avversaria, che domina il primo tempo, poi arriva l'episodio, l'avvio di ripresa, cambia la partita, cambia lo stato psicologico. Ero a San Siro, devo dirti che insomma anche l'aspetto ambientale ha fatto la differenza. Quindi l'irrazionalità del derby sicuramente ha avuto un peso. E poi sicuramente c'è anche il fatto che l'Inter comunque ha più soluzioni, ha più colpi. Questa è la vera differenza, secondo me, che c'è in questo momento fra le due squadre. Quindi è molto più facile che la grande giocata arrivi da una parte piuttosto che dall'altra. Sì, vi faccio notare che l'ultima volta che abbiamo avuto tre squadre così vicine a quest'ora in testa alla classifica era 2001-2002, Inter, Juve 47, Inter e Roma 46, finì con quella stagione con il famoso 5 maggio interista. Io propongo di mettere l'elmetto in questo finale di stagione, Sandro. Però c'è Lazio-Inter che anziché il 5 maggio si gioca domenica, che è il 16 di febbraio, sì. Quindi il calendario in questo senso aiuta. Io, guarda, anche io l'ho vista quella statistica, quel ricordo, ma io penso che sia molto diverso, perché là era un campionato equilibrato in partenza, qui un campionato equilibrato non lo era in partenza, tantomeno per la Lazio, che adesso è di diritto è inserita, perché ha lo scontro diretto con l'Inter in casa ed è in vantaggio 3-1 nello scontro diretto con la Juventus. Quindi, a dispetto del punto di ritardo in classifica, è comunque inserita la Lazio in questa lotta a scudetto. Poi sono d'accordo su ieri, che comunque guarda, l'Inter ha tante soluzioni in più anche dalla panchina. Ripeto, poi ritorniamo alle non spiegazioni. Chiunque, 100 allenatori tesserati di tutto il mondo, quando l'arbitro fischia la fine del primo tempo, non vanno dal secondo e dicono di Eriksen di scaldarsi. Capito? E invece questo non succede, e diventa tutto qualcosa di misteriosamente magico quello che avviene nel secondo tempo. Ecco. Sì, è anche episodico, perché comunque. Onestamente, i due gol del pareggio, uno dietro l'altro, e sinceramente dal punto di vista emotivo, una squadra come il Milan che prende due schiaffi così, vabbè, è fin troppo facile ritornare al famoso Liverpool-Milan, Milan-Liverpool, che non fu mai giocata secondo la stragrande maggioranza dei milanisti, anzi la totalità dei milanisti. Però prendere due schiaffi così in maniera episodica, ti ripeto, perché non è che l'Inter abbia sbattuto il Milan immediatamente nell'area, l'abbia massacrato di tiri e poi abbia trovato i due gol. Sono stati sostanzialmente due lampi del buio molto ravvicinati. Credo sia forse anche questa la spiegazione emotiva di quanto è successo. Carlo, tieni presente che poi in quella finale che tu hai citato, il Milan è una squadra strutturata, di personalità vecchia, esperta. Sì. Ieri, esatto, secondo me, esatto. A partire da Donnarumma, Conti, Kier, però è un esperto del campionato italiano, Romagnoli, Hernandez, io ho notato un po', cioè le facce, no? Delle volte fate voi stessi, no? L'ufficio faccia, erano le facce di ragazzi impauriti, certo. Dopo vero, gol, vero. Facce di ragazzi ed è per questo che ti dico, in quel momento lì evidentemente il fluido Ibrahimovic, perché io sinceramente non ho mai visto una squadra cercare con così tanta ossessione il giocatore là davanti. Poi il mondo è bello perché vario, Pierluigi, perché c'è uno che scrive che con Handanovic in porta il primo tempo finiva 4-0. Un altro invece, un altro ascoltatore che scrive: nessuno dice che con Handa in porta il Milan non faceva manco un gol. Quindi il mondo è bello perché è proprio molto variopinto. Con Handanovic in porta finiva 4-0 per il Milan? Sì, con Handanovic in porta finiva 4-0. Cioè, nessuno dice questo, che questo con Handa in porta il Milan non faceva manco un gol. No, dico, ma il primo, voglio dire, uno che ha litigato con Handanovic, non lo so, A me lo chiedi, non lo so. Con tutto l'affetto per Padelli, ma Handanovic è nettamente un'altra cosa, no? Quindi forse non lo so, ora dei problemi personali con Handanovic. Non lo so. Ieri, devo dirti la verità, io ho la sensazione, l'avevo anche detto, mi aspettavo un derby equilibrato, avevo avuto la sensazione di un Inter nelle ultime partite un po' stanca. Ne parlavo all'intervallo ovviamente con Bobo, con tutti gli altri lì a San Siro, e la sensazione era molto forte, sembrava proprio questa, al di là di un Milan iper pimpante. Poi ragazzi, il calcio, ripeto, soprattutto alle grandi partite vive anche di pitille. Il gol di Brozovic è un gol che spariglia la situazione, che rovescia immediatamente gli scenari psicologici. Il gol del 2-2 immediato, poi a quel punto la partita è diventata completamente un'altra cosa, perché il Milan ha cominciato oggettivamente ad avere paura. Poi comunque Ibra all'occasione del 3-3 su quel colpo di testa, insomma, sono partite che è un po' difficile da commentare, cioè uno deve godersene, ovviamente poi gli interisti se la godono più dei milanisti, ma se la deve vedere, guardare, perché in qualche modo ci racconta il mistero di questo gioco, che rimane, perché non è tutto nazionale, anzi è pochissimo nazionale, soprattutto in certe occasioni. Però è chiaro che per l'Inter, tornando al discorso della sfida scudetto, che la Lazio fosse in corsa, sai come la penso, lo dico da parecchie settimane, che secondo me è nettamente la più solida in questo momento. Poi non so se durerà, sicuramente una rota più corta, anche più dell'Inter? Sì. Sì. Detto questo, poi la Juve secondo me è la più forte in termini assoluti. L'Inter ha la forza del suo allenatore, di una rosa ulteriormente rafforzata. È chiaro che se Eriksen comincia a tirare una punizione a partita come ieri, poi i tifosi dell'Inter si divertono. È veramente una grandissima sfida. Il trend delle ultime settimane, degli ultimi due mesi, dice Lazio senza se, senza ma. Però, ripeto, da qui alla fine è lunghissima. Detto questo, che stava di? Non mi ricordo, però comunque non si parla di concerto per me. No, sì. che quando diciamo che comunque la forza dell'Inter, visto che è stata citata anche da qualche ascoltatore che se la prende con il buon Padelli, comunque è che ieri sera ha vinto senza Handanovic, Lautaro ed Eriksen. E questo fa impressione, questo dato fa impressione. E si notava soprattutto nel primo tempo, come naturale, soprattutto l'assenza di Lautaro, che non è un giocatore casuale. Però sei d'accordo sul fatto che la Lazio è la più solida, Sandro, come dice Pierluigi, delle tre contendenti in questo momento specifico? Ma dopo aver visto il derby ieri sera, io non faccio più pronostici neanche su quello che faccio io tra mezz'ora, quindi neanche su Juventus Brescia, questo sarà un capitolo che precederà Lazio-Inter. Sì, è vero, Juventus Brescia. No, io credo che la Lazio è psicologicamente la più solida. Poi io quando sento i discorsi dipende dalla testa, la psicologia, le motivazioni, la fame, così tendo a dire parliamo di calcio, parliamo di tattica, parliamo di tecnica. Però effettivamente sulla Lazio, in un campionato, se vogliamo, anche così pazzo e così imprevedibile, è quella che può gestire le imprevedibilità, se non altro pensando solo al campionato. Ecco, durante la settimana invece Inter e Juventus, a partire da questa settimana, avranno presumibilmente impegni a raffica sia di Coppa Italia che di Europa League e di Champions League. Ecco. Guarda, l'Inter può fare anche psicologicamente una scelta di giocare l'Europa League con la mano sinistra, col piede sinistro, anche se non è una scelta particolarmente a dire, no, è sempre una scelta che non mi piace, però insomma ci ricordiamo anche quello che fece Conte, forse una delle dei piccoli errori di una carriera fin qui clamorosa, quella Europa League persa in casa, sì. Per il record di punti, poi ovviamente lui ti dirà il contrario, però non c'è alcun dubbio che altri allenatori avrebbero fatto una scelta di quel tipo. È chiaro, la situazione è particolarmente ghiotta, è particolarmente golosa, l'Europa League è bella, è bellissima, però il traguardo è lontano, quindi io penso che l'Inter in questo momento priorizzerà soprattutto sul campionato. Chi non può farlo è la Juve, che ovviamente ha una competizione affascinante, meravigliosa, che è la sua, che deve tornare a essere il suo territorio. È chiaro che la Juve, la Champions League, non può fare calcoli, non può fare ragionamenti. È altrettanto vero che ha la rosa, secondo me, profonda per poter gestire tutte le competizioni da questo punto di vista, ma sulla Juve poi non so se affrontiamo l'argomento. Sì, oggi, lo affrontiamo anche più tardi. Secondo te, crisi vera? Secondo me crisi vera non è, perché comunque la Juve gioca anche delle buone partite rispetto ad altre. Quello che dicevo ieri e che ribadisco è che mi ha colpito molto il modo in cui l'ha buttata via. Cioè, io posso accettare, posso capire contro un grande Verona, perché è un grande Verona, la sofferenza della prima mezz'ora, perché fa parte forse anche di un implicito progetto tattico della Juve: li facciamo sfogare e poi facciamo venire fuori la nostra qualità, che è superiore. Quindi io quella prima mezz'ora la posso anche capire, anche se mi ha impressionato in certi momenti il forcing del Verona. Quello che capisco di meno è, conoscendo la Juve cannibale degli ultimi anni, la Juve pratica, la Juve solida, la Juve concentratissima, come dall'1-0, con delle ingenuità, il colpo di tacco di Bentancur, il retropassaggio di Pjanic, De Ligt fuori posizione, il contropiede preso per andare sul centro, insomma, successe cose che voi umani, qui poi si può aprire anche un dibattito su Sarri, il sarrismo, l'adesione dei giocatori a questo progetto, però sicuramente il trend non è buono, cioè la situazione sta cambiando, nell'ultimo mese è cambiata, poi magari adesso questa sarà la crisi che farà scattare la scintilla, che ricompatterà tutto e vedremo un'altra Juve da qui a poco tempo, ma certamente Napoli e Verona sono due passaggi che da un po' hanno cambiato la mia percezione, perché la Juve era in controllo e adesso, giocando meglio quelle due partite con Napoli e Verona, avrebbe già un tesoretto. Avrebbe avuto la possibilità di appunto, un il fatto è che il tempo non si può dire ci vuole tempo, bisogna dargli tempo, perché il tempo a questo punto non c'è più, cioè si tratta di comunque di progredire, di cambiare rotta, ma immediatamente, perché si è ha perso tre delle ultime cinque trasferte all'inizio dell'anno. All'inizio dell'anno la Juve non era brillantissima sempre, si parlava astrattamente del sarrismo, ma i risultati sono stati, la Juve è rimasta imbattuta per 20, 21, 22 partite stagionali prima di perdere l'Olimpico con la Lazio, cioè di che stiamo parlando? Adesso ha perso tre delle ultime cinque trasferte, cioè questo è un dato oggettivo, quindi la tendenza, il trend in questo momento è brutto tempo, ecco. Sì. Non si sta rasserenando, anzi. Ragazzi, aggiungo alla compagnia il trionfatore della settimana appena conclusa, trionfatore a Sanremo e poi trionfatore del derby in rimonta su... Che te ridi, Labate? Tommaso Labate, che te ridi? Ciao. Ciao Carlo, ciao Pier, ciao a tutti. Buongiorno. No. Sei ancora ubriaco, sei ancora inebriato. No, vabbè, ma soprattutto sei vestito o sei come Ciccio Valenti ignudo col cappello? Guarda, sono ignudo in questo momento perché sono rientrato a casa in questo momento dopo una settimana, diciamo, sanremese sul derby. Posso confessare di aver lungamente trascorso la tratta da Milano a Roma in treno scambiandomi note vocali con l'ignudo Ciccio Valenti. Di cui ovviamente non posso anticipare il contenuto. No, ma io non voglio saperlo, io proprio non lo voglio sapere. Serata normale, partita normale, partita come se ne vedono tante, no? Sì, no. Sì, anche Sandro Sabatini ne vede un paio al giorno di partite così, no? Sandro. Ma no, guarda, io è raccapricciante l'immagine di Ciccio Valenti, esatto. e la batte nudi che si scambiano messaggi. Cioè, non... Se poi, se sono, ragazzi, dei videomessaggi, io chiamerei immediatamente la polizia postale. Hai ragione, Sandro. No, solo audio. Vabbè, lei è un autista politico, mantenga una certa calma. A parte ieri ho visto pure che c'era Riotta con la sciarpa, ho visto anche Amadeus, sì, tra l'altro, il vero trionfatore. Alla fine del primo tempo l'ho incrociato, cappotto azzurro. Riotta era accanto a me, praticamente, una postazione sotto, e devo dire, so che sembra incredibile, che aveva annunciato sul 2-0 la vittoria per 4-2. Io in testa mia, come dire, ricordavo dei vantaggi di un'altra squadra che poi finiva per perdere 4-2, che affondavano le radici nel 5 maggio del 2002. Per me quindi il 4-2 non è mai stato un risultato così amato. Da ieri, diciamo che quella ferita con questi due numeri messi insieme in questa sequenza può dirsi finalmente rimarginata. Comunque io ti vorrei ricordare, l'ho già detto prima, ma vorrei ricordarti che l'ultima volta in cui ci sono state tre squadre in testa così ravvicinate, Juventus 47 e Inter Roma 46, finì 2001-2002 in quella maniera che tu hai ricordato ora. Ma sono sicuro che finirà anche quest'anno così, magari anche con più anticipo rispetto alla scadenza dell'ultima giornata, perché io vedo la Juve che ha fatto qualche battuta d'arresto, ma capita diciamo anche nelle migliori famiglie, ma che rimanga tutt'oggi la squadra, come dire, più da battere, dai. No, io mi domando per Luigi Pardo per quanto tempo ancora dovremo sopportare i Labate e gli Zampini di questo mondo. Vabbè, ma ci divertiremo, cioè, insomma, vedervi da fuori è uno spettacolo meraviglioso, quindi insomma ce lo godiamo, a patto insomma che tutto rimanga ovviamente nei limiti della buon costume. Cioè, se adesso si spoglia pure la base, si spoglia pure Zampini, poi c'è, cioè, veramente diventa complicato. Cioè, manteniamo una certa calma, una certa compostezza, direi, anche lo Sassuolo, ma sì, per il resto godiamo. Cioè. Volevo chiedere a Sandro Sabatini, per completare il discorso di prima, se per la Juventus è crisi vera oppure no. Sì, è crisi vera, però fammi rimpiangere anche i bei tempi in cui c'era la Sabrina Ferilli o l'Anna Fabri. Ma bravo, che ma bravo, non Sandro. Labate e Valenti, porca miseria, capito? Vabbè. I bei tempi andati, adesso siamo in epoca di... di gentili, guarda, signori da tastiera che sfruttano gli sconosciuti come siamo noi, vabbè, per loro, vabbè, lasciamo stare. Vabbè. Comunque, no, guarda caso, io no, volevo dire una cosa, ho sentito quello dell'analisi di Pardo, ho sentito le parole anche un pochino scaramantiche, secondo me, di Labate. Un bel pochino, ecco. Secondo me per la Juve, se non la chiami crisi, io non trovo un altro termine. Ma è crisi di rigetto di Sarri? Ma allora, io, sai, i risultati sono oggettivi, il gioco è sempre soggettivo, anche le impressioni sono soggettive. Cercando di mettere ordine, di fare un pochino un'analisi un pochino concreta, cioè tu parti con un nuovo progetto e all'inizio tutto sommato qualcosina fai vedere. La cosa preoccupante è che anziché migliorare, questa squadra nel progetto, nel sarrismo, in quella roba lì, chiamatela come vi pare, è comunque andata peggiorando. Capito? Cioè, e quindi io immagino, tanto so che ne parlerete con Nerozzi, no? Fra un sì, po'. Esatto. Credo che sia molto difficile in certe situazioni scindere il tifoso dal dirigente. Mi spiego meglio, Moratti, Berlusconi, i presidenti tipo Agnelli di adesso, che non esistono più perché le presidenti sono holding o sono comunque stranieri molto più asettici, in certe situazioni si trovavano a ragionare da tifoso o da dirigente. Io credo che sia nella stessa situazione anche Andrea Agnelli. Ragionasse semplicemente da tifoso, avrebbe voglia di ritornare al passato. Ragionando da dirigente non se lo può permettere, non è giusto anche ritornare al passato. Però il grande dubbio che anima adesso tutti i tifosi della Juventus, io credo che sia significativo del, sì, fatto che la Juventus è in una piccola crisi. Poi magari può essere, come diceva Pier prima, la scintilla che fa scattare un finale travolgente, ma adesso la situazione è questa. Sono d'accordo con te. Grazie, sì. Sandro, ti abbraccio. Ciao, grazie a voi, ciao, un abbraccio. Ciao. Torno un attimo da Tommaso Labate, perché insomma Conte e Lukaku santi subito, no Tommy? Ma guarda, io su questo a me non piace dire quando ho avuto ragione in precedenza, soprattutto perché la maggior parte delle volte in precedenza ho avuto torto. Però io ho abbracciato la causa contiana dal primo momento in cui ha firmato per l'Inter. e come è noto prima non ero certo un suo estimatore, ma per motivi che riguardavano la fede sportiva. E mi ricollego a quello che diceva Sandro prima e al dibattito che sarebbe in corso tra i tifosi e la Juve. Il sottoscritto non ha mai detto, neanche per un secondo, di rivolere negli anni più bui di Pioli, di Spalletti, eccetera, eccetera, Mourinho, perché certe storie, quando finiscono, sanno di, come si dice tra ragazzi, di minestra riscaldata. Sì. Detto questo, non mi curo delle cose della Juve, guardo l'Inter con un occhio, diciamo, poco sportivo e più da tifoso, e mi rendo conto perfettamente che abbiamo regolato un bullone psicologico, cioè ci siamo Conte stesso si è svincolato da quell'idea di aggredire le squadre, di andare in vantaggio. A me c'era una cosa che odiavo, e quella classifica che ci dava in testa con i soldi risultati della prima mezz'ora, per poi staccare la spina al 70esimo. Mi ricordo una partita col Sassuolo quest'anno, con un larghissimo vantaggio che stava per essere alla fine recuperato integralmente. Siamo usciti con i 3 punti per un miracolo alla fine. Preferisco molto più questo approccio che fai divertire Ibrahimovic e gli fai fare il gol nell'assist primo tempo. Adesso fai lo spaccone, adesso fai lo spaccone, però nel primo tempo non so se facevi questo tipo di ragionamento quando c'era Ibrahimovic che stava insieme al Milan dominando il derby. Non so neanche se facevi questo ragionamento quando ha preso il palo all'ultimo minuto. No, assolutamente, però mi è testimone, grande firma del Corriere della Sera, editorialista degli esteri, Massimo Nava, milanista, che era allo stadio vicino a me ieri. Io a un certo punto, ti giuro, era tanta la trance agonistica, tanto mi sentivo all'interno di un poema omerico, che a un certo punto ho cominciato a fare ragionamenti neanche da tifoso, ma fuori. Ho persino detto, era meglio perdere 2-0 nel primo tempo che non farsi rimontare col gol di Ibrahimovic al 3-3. Meglio perderla che uscire con un punto vanificando una rimonta. Per fortuna è andata bene, però una squadra che... Interrompiamo la follia di Labate, che è in condizioni, esatto, esatto, sono d'accordo. Meglio perderla che pareggiarla. Ieri l'ho detto, sarebbe stato meglio perderla 2-0 con i gol subiti nel primo che tempo, prendere il gol del pareggio di Ibrahimovic, non veder vanificata quel dio di rimonta da un gol di Ibrahimovic. Per fortuna poi tra le due buste è uscita la busta numero 3 con il camioncino di Magalli, e il gol di Lukaku ci ha portato tutti a nanna felice. No, ecco, posso dire una cosa su Lukaku? Vabbè, Ibra ragazzi, di che dobbiamo parlare? 38 anni, ma rimane più forte di tutti, cioè uno che ha 38 anni è così, è una cosa, forte di tutti non lo so, ma voglio dire, rimane un giocatore dominante. Ieri abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione della sua grandezza, con buona pace di quelli che dicevano torno al nonno, vabbè. No, dimmi veloce di Lukaku, che poi devo andare alla borsa. Su Lukaku sono finiti gli aggettivi, nel senso che lui alla fine trova il gol del 4-2. Ieri è stata l'ennesima sintesi di quello che è Lukaku è un giocatore straordinario. Anche Lukaku non tira in porta, ma ci ragioniamo per assurdo, è comunque un giocatore utile per quello che fa per i compagni, e poi in tutto questo è anche uno che tira in porta, che ha 21 gol o 22, 21 gol in stagione, e siamo all'inizio di febbraio, quindi è veramente, ma non è neanche una scommessa, perché secondo me si sapeva, ma insomma è la scelta azzeccata di Antonio Conte. Il calcio è una cosa completamente diversa da tutti gli altri business, perché quando è arrivato Marotta prima e Conte poi, una parte del popolo dell'azzurro, legittimamente, siccome il calcio è anche questione di cuore, aveva dei dubbi, ma la verità è che poi comunque invece ci vuole un po' di razionalità. La razionalità è che l'Inter andrà a prendere un grande dirigente e un grandissimo allenatore che hanno preso un grandissimo attaccante, e su questi tre pilastri mi sembra stiano costruendo qualcosa di importante, anche se Labate non è ancora convinto. Grazie Tommy, ciao. Ciao ragazzi, rivestiti. Ciao rivestiti, mi raccomando, anche per Ciccio Valenti. Borsa, torniamo. Ragazzi, ieri sera stupendo, mi sembrava di rivivere Istanbul, uguale. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Complimenti a Nedved, a Paratici e a Sarri. Quest'anno zero titoli. Siete proprio riusciti a fare un bel disastro. Oggi l'abbiamo lasciato i tre punti per strada in un modo imbarazzante, direi. Adesso siamo secondo, è vero che stiamo lì, non siamo stupidi, siamo adesso a un punto. La Juve è altamente favorita, però noi con la umiltà di questa squadra nel lavoro almeno dobbiamo dare fastidio. Questi erano nell'ordine, un ascoltatore via WhatsApp 349-238-6666, Szczęsny, che è stato molto duro dopo la partita con il Verona, e Luis Alberto, che invece è un fenomeno totale. Lazio, hai sentito Pierluigi? Non so se hai le azioni della Lazio, più 10%, non credo. No, non ce l'ho, mancano. Non ce l'ho. Peccato. Cioè, io l'avrei... Non acquistare società di squadra di calcio. Però non mi sorprende perché insomma, ti avverto che c'è Lorenzo Minotti con noi, che ieri ha commentato. Ciao, tra l'altro. Ciao, ben trovato. Ciao Lorenzo, ciao, che ha commentato ciao. Ieri Parma-Lazio. Dimmi Pier, dicevi? No, voglio dire, poi il calcio, sappiamo le azioni del calcio, ma ne sa di più Barisoni, e vivono di una... cioè la componente psicologica è ancora superiore rispetto alle azioni normali, quindi cioè il calcio è di per sé liquido, appunto, per sua natura, come ben sappiamo, quindi figuriamoci quando succedono cose clamorose come quella che sta oggettivamente facendo a Lazio. E a Lorenzo gli chiediamo, lui che l'ha vista, che idea si è fatto. C'è un episodio ovviamente alla fine che pesa, sì. E non è un dettaglio. Detto questo, la Lazio forse poteva anche chiuderla prima, no? Ma direi che la Lazio ieri ha fatto un grandissimo risultato, proprio perché è stata una partita complicata, difficile. Io credo che il Parma abbia giocato alla pari della Lazio, e quindi credo che questo, il fatto che la Lazio abbia portato a casa questa vittoria, testimoni proprio questa squadra è cresciuta nell'aspetto della consapevolezza, del carattere, del gestire, del saper soffrire. Io avevo commentato anche il derby con la Roma, e anche in quell'occasione la Roma era stata nettamente superiore alla Lazio, però la squadra di Inzaghi riesce anche in questi momenti difficili a portare a casa risultati fondamentali, quindi dimostra che la squadra ha fatto un passo in avanti dal punto di vista appunto della crescita, cosa che non avveniva per esempio inizio stagione, quando giocava bene poi si era fatta rimontare un paio di volte e aveva buttato il vento dei punti. 18 risultati consecutivi testimoniano che questa squadra ha trovato continuità, ha qualità, e quindi adesso, certo, arrivati a questo punto del campionato, considerando che non ha neanche distrazioni né da Coppa Italia né da impegni europei, è una squadra che può dire la sua, anche se ovviamente secondo me Inter e Juve rimangono sempre un gradino sopra. Anche se Pierluigi non ha torto, peraltro dice che in questo momento dà l'impressione di essere delle tre la più solida. Il test con l'Inter sarà cruciale, io credo, perché è uno dei classici snodi del campionato. Tu stai dicendo però che la Lazio ha vinto a Parma da grande squadra, perché si dice vinci da grande squadra quando vai lì, giochi una partita complicata contro un avversario difficile, eppure la porti a casa, come mille volte ha sempre fatto ad esempio la Juventus in altri tempi. Sì, proprio così, e credo che il fatto che la Lazio di Inzaghi, che ci ha sempre abituato ad avere determinate caratteristiche, cioè mi riferisco a una squadra molto prolifica dal punto di vista dei gol, due anni fa è stato il miglior attacco in assoluto, adesso quest'anno c'ha la miglior difesa, quindi questo deve cominciare a far pensare i rivali che questa squadra non scherza. Ultimo, poi chiudo, la Lazio tra l'altro secondo me ha una rosa, l'abbiamo detto tutti, molto più ristretta, meno cambi rispetto a Inter e Juve, però negli scontri diretti ha dimostrato che quando può giocare con i suoi effettivi migliori riposati, senza impegni ravvicinati, ha battuto due volte la Juve, l'Inter ha perso con l'Inter a Milano ma l'ha fatta soffrire in maniera incredibile, quindi la Lazio arriverà con le sue carte da giocare a questo finale di campionato e agli scontri diretti che a questo punto diventeranno fondamentali. Nelle passate stagioni, Pier, il tallone d'Achille della Lazio erano i confronti diretti, perché in diverse occasioni si è trovata a lottare lì davanti, poi arrivava il confronto diretto e la Lazio puntualmente perdeva. Adesso questo difetto non c'è più. No, questo difetto non c'è più, anche se onestamente se gli scontri diretti possono essere... negli scontri diretti può succedere secondo me che la Lazio possa soffrire, anche se fin qui non l'ha fatto. Nella regolarità mi sembra più difficile, perché non avendo le coppe È una squadra molto regolare, lo dimostra, lo continua a dimostrare. Ieri, tra l'altro, giustamente Sandro prima sottolineava le assenze dell'Inter di ieri che sono pesanti, ma ieri nella Lazio mancava Milinkovic Savic, ci mancava Rado, ci mancavano dei giocatori, soprattutto Milinkovic, ma non solo lui, fondamentali. Anche a Brescia ha vinto, sì, d'accordo, all'ultimo minuto del recupero, anche lì mancavano due titolari importanti, mancava Luis Alberto. Cioè, comunque sia, è sicuramente una rosa meno profonda rispetto a quella della Juve, soprattutto, e adesso anche dell'Inter, soprattutto dopo il mercato che l'Inter ha fatto a gennaio. Però è anche vero che poi alla fine si gioca in 11, se tu hai due competizioni e non tre, comunque hai secondo me tutta la possibilità per riposare e per rifiatare. Non lo so, è chiaro che è lunga, adesso sì, è lunga. Io penso che in questo momento può cambiare, ragazzi, tutto può succedere. Però io penso a Luis Alberto e soprattutto ad Acerbi. Tu citavi quelli che mancavano, io dico che questi due in questo momento sono nei rispettivi ruoli migliori del campionato italiano e tra i migliori in Europa, non credo di andare molto lontano dal vero. Invece, dopo partita, Lorenzo, un pensiero da Versa, è andato lungo dopo partita, quel rigore c'era, però sinceramente lo sbrocco è stato perfino eccessivo, almeno secondo me. Ma c'era molta tensione, sì, direi che già c'è stato fin dall'inizio una particolare, il Parma sentiva in maniera particolare questa partita perché poteva certificare il fatto che questa squadra magari possa accomodarsi al tavolo di quelle che possono ambire all'Europa League, quindi era un test importante. Fra l'altro il Parma, da quando è tornato in Serie A, la Lazio è una delle poche squadre con cui non ha mai fatto un punto, e quindi c'era tutta una serie di ingredienti che hanno alzato un po' la tensione, quindi direi che effettivamente si è andato un po' oltre, anche se direi che siamo tutti d'accordo che il fallo di Acerbi era evidente e il rigore ci stava. Sì, sì, mi sembra sia andata, cioè non penso ci siano grandi dubbi in proposito. No, da lì ma soprattutto gli errori però vanno e vengono, per Luigi adesso non piacerà ai parmigiani, sì, non piacerà ai fiorentini, non piacerà a nessuno, però gli errori vanno e vengono e giustificano sempre, cosa che viene puntualmente fatta, l'invio del solito dossier all'ufficio arbitri. Vanno e vengono, però diciamo soprattutto quando sono episodi, noi settimana fa, mio malgrado, perché sai, io vorrei parlare proprio di tutt'altro, ci siamo intossicati per mezz'ora a parlare di tutto quello che è successo nel post partita di Juve Fiorentina, e lì era successo che un rigore che non c'era, che io non avrei dato, sul 2-0, sull'1-0 all'80esimo ha di fatto chiuso la partita. Ieri io da Versa sicuramente andavo lungo, però siamo in quella situazione quando ti fischiano il rigore al 93esimo, o te lo fischiano o non te lo fischiano, lì significa che all'80%, 75% per quelle che sono le medie di realizzazione dei rigori cambia il risultato di quella partita. Quindi io umanamente lo capisco, la presa di posizione, perché quando ti succede una cosa del genere in positivo o in negativo all'ultimo minuto poi è impossibile recuperare, poi il rigore magari avrebbe sbagliato, questo non lo sappiamo, rientra in quel 25-30% statistico che c'è, però insomma se Parma dai quel rigore probabilmente la partita la pareggia, quel rigore c'era, quindi rispetto ad altre situazioni sulle quali si è discusso con dei margini poi di recupero, quando ti succede un episodio del genere all'ultimo secondo, è quello che decide. Lorenzo, grazie, a presto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao Lorenzo Binotti, grazie davvero. Traffico, torniamo. In giornate come questa riesco a fare un censimento esatto dei conoscenti interisti che ho. Si fanno vivi tutti. Fantastico. Siete tutti convocati anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, annunciato prima da Sandro Sabatini, eccolo qui, Max Nerozzi, che accogliamo facendo le onore di casa con una domanda banale. Sarri rischia? Dai, non scherziamo. Non è una mia, no, è una citazione, è quella che ha detto la Juve, non è mia, io faccio l'ambasciatore. E io se io lo chiedo a te? Non lo so, secondo me no, perché la Juve non butta via gli allenatori durante l'anno, tranne casi eccezionali. E perché la Juve si è giocata tanto cambiando un allenatore che aveva vinto 5 scudetti e intraprendendo una, un'altra strada, insomma, una rivoluzione filosofica, non solo calcistica. Le rivoluzioni possono anche andare male. E so, perché mi fai questa domanda, perché qualcuno ha scritto, se qualcuno ha scritto, immagino avessi elementi per farlo, perché non penso che i giornalisti per sport inventino le cose. Bravo. Io questi elementi non li ho trovati, poi ci possono anche essere, per chi, secondo me non rischia. Io continuo a pensare che la chiave di tutto sia la domanda di Pardo a Sarri nel dopo partita di Verona-Juventus, e soprattutto la risposta che Sarri ha dato per... come elemento chiave di questa domanda. Non penso nemmeno io che Sarri possa rischiare adesso, per tutte le ragioni che ha detto Max Nerozzi e anche per altre, però la domanda chiave è: ma siamo tutti d'accordo su questo piano? Hai chiesto a Sarri, la risposta di Sarri è stata un po' inquietante, Pierluigi. No, beh, gli ho chiesto se i leader gli possono dare una mano, e lui, che devo dire, dal punto di vista della dialettica è persona particolarmente schietta, ha fatto capire che, insomma, è da un po' che parliamo, spero che i leader mi diano una mano, cioè, insomma, la sensazione è oggettiva, poi, dai, di un po' di confusione. In questo momento, guarda, per sintetizzare, la Juve in quest'ultimo trend negativo dell'ultimo mese non ha la bellezza del gioco di Sarri, che ovviamente era il punto d'arrivo sperato dai dirigenti della Juve, però non ha nemmeno la solidità e la concentrazione di Allegri, quindi non ha in questo momento né le qualità di Sarri, del calcio di Sarri, che comunque si è visto al Napoli e al Chelsea, è un calcio che può essere molto efficace e anche molto bello, e non ha neanche quelle che erano delle caratteristiche positive di Allegri. In questo momento è... perché anche la fase offensiva, cioè al di là della difficoltà che abbiamo visto, la concentrazione e la gestione del risultato, anche la fase offensiva, onestamente, l'altro giorno era legata alla qualità degli uomini. Cioè, Cristiano Ronaldo il gol se lo fa da solo perché è un marziano, Douglas Costa ha degli strappi al di là della sua fragilità fisica che sono straordinari, quindi voglio dire, ci sono dei giocatori della Juve in questo momento non si può neanche dire che siano fuori forma, soprattutto, diciamo, dalla cintola in su. Però, però il quadro è: non è una squadra di Sarri, non è una squadra di Allegri, non ha cinismo, i giocatori non sono fuori forma e il momento è un disastro. Quindi Max, che si fa? Cioè, cosa succede questa settimana? Cosa deve fare Sarri? Perché il quadro che ha fatto Pierluigi è preoccupante, direi, se uno è tifoso della Juventus. No, la prima cosa è che secondo me lui deve scegliere un po' più una formazione base, che la Juve quest'anno non ha avuto, anche per problemi fisici. Anche questo è paradossale: a Sarri si imputava l'allergia al turnover, esatto, e adesso gli si chiede di sceglierne 11. No, non è che si chiede, però io penso che per preparare cose nuove avere i stessi 11 aiuta. E la seconda cosa, per venire alla tua prima domanda, è che la dirigenza della Juve, che è fatta di gente che di calcio ne capisce, da medio e da paratici, secondo me ha comunque il retropensiero, e lo sa, che Sarri ha una squadra probabilmente fantastica a livello di nomi e valori tecnici, ma non è la squadra migliore per il calcio di Sarri, se esiste un calcio di Sarri. Tant'è, l'abbiamo raccontato tutta quest'estate, che la Juve alcune operazioni di mercato ha cercato di fare e non è riuscita a farle, non è un segreto. E Sarri deve essere molto bravo ad adattare il suo calcio con giocatori che non ha mai avuto, insomma, lui voleva mezzali diverse, tant'è che è stato ceduto a Bresciano a gennaio, anche prestato, e con altri interpreti, non so, pensa alle ultime formazioni, Carlo, non so, mi viene in mente Quadrado a destra, Alexandro a sinistra, lui quasi sempre ha avuto uno dei due terzini un po' più bloccato, sì, e qui non ce l'aveva. Anzi, sì, a Quadrado, che secondo me sta giocando in tutto sommato adesso malino, ma come stagione ottima, però è un centrocampista attaccante che sta facendo il testino adesso titolare. Sì. E a ci me sono, più, ci sono più smessi... Dimmi, Pier. Scusa. Vai, Pier. No, non volevo interromperti, Max. No, io dico che questo è vero, è giustissimo. A me quello che colpisce di più è la mancanza di, cioè, il tacco di Bentancur, oltretutto uno dei migliori della stagione della Juve, sull'1-0. È quello che mi colpisce. E io credo che qui, cioè, il nodo, l'altra sera Guidolin diceva una cosa giusta e per certi versi preoccupante, cioè che la cosa più difficile da allenare è la concentrazione. L'aspetto tecnico e tattico lo puoi allenare, l'aspetto mentale è più difficile. Allora, può darsi pure che la Juve stia un po' giocando col fuoco, perché comunque fino adesso è comunque in testa alla classifica, ha l'abitudine che poi tanto la risolve perché è più forte, però dare Lorenzo deve cambiare passo, cioè, sì, anche e soprattutto hai ragione, anche e soprattutto a livello di concentrazione io credo che debba cambiare passo, quello credo sia il punto chiave. Ragazzi, devo chiudere, grazie Max, alla prossima. Avrei molte altre cose da chiederti, ma lo farò in altra occasione. Con Pierluigi Pardo ci ritroviamo domani, naturalmente, dopo averlo visto stasera Tiki Taka. Claudia Schiattone, Gianmarco Ferronato, ciao a tutti. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Ho staccato tutto.